America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Wall Street ha chiuso a ribasso, ce lo aspettavamo dopo il risultato negativo o comunque poco rassicurante del tasso di disoccupazione venerdì. Ricordiamolo, venerdì mattina a mercati chiusi il Dipartimento al Commercio ha comunicato che il tasso di disoccupazione in America era sì migliorato dall'8,3 all'8,2%, ma l'economia non era riuscita a formare più di 120.000 posti di lavoro nuovi, 120.000 nuovi salariati dipendenti, per usare il termine tecnico. Ecco, il mercato si aspettava oltre 200.000 nuovi salariati dipendenti, si aspettava 203.000 nuovi salariati dipendenti. Dunque la situazione ovviamente ha creato qualche problema, perché l'occupazione ha tirato molto bene finora. L'occupazione è uno degli elementi chiave per il funzionamento della dinamica della crescita americana. Perché? Beh, perché creando nuovi occupati che ricevono dei salari si creano nuovi introiti fiscali per lo Stato, e dunque il modello di sviluppo da qui a tutto il 2012 era relativamente positivo grazie ai circa 200.000 nuovi salariati dipendenti al mese che si erano formati negli ultimi mesi. Ecco, questa cosa non è stata accolta bene, vi dicevo, come potevamo sospettare, da Wall Street. L'indice Dow Jones, ma un po' tutti gli indici, hanno chiuso a ribasso, il Dow dell'1% a meno 130 punti, siamo sotto quota 13.000, il Nasdaq meno 1,08%, siamo a 3.047, l'S&P 500 meno 1,14, siamo a quota 1.382. Ecco, la reazione dei mercati poteva essere anche più incisiva, c'è stata tutto sommato una certa prudenza, però si tratta intanto del quarto calo consecutivo dell'indice Dow Jones, e non dimentichiamo che la settimana scorsa l'indice Dow Jones ha perso complessivamente 151,90 punti, ha perso complessivamente l'1,2%, ed è stata la perdita più forte dall'inizio dell'anno, una perdita tanto più deludente in quanto in aprile, il 2 aprile per essere precisi, l'indice ha toccato il massimo dal maggio del 2008. Dunque emerge una domanda di fondo: siamo davanti a un realizzo di profitti o siamo davanti a una vera e propria correzione? The economy is doing better, the labor market is doing better. Going forward is going to do much better than it has been doing. Ho fatto una lunga chiacchierata con Allen Sina, il responsabile Decision Economics, uno dei più importanti economisti americani privati, molto seguito anche in congresso, e mi dice sostanzialmente che questo dato certamente è un dato che disturba, ma di fondo la posizione economica degli Stati Uniti è certamente molto più solida dell'Europa, e mi dice che l'economia americana farà molto meglio in futuro rispetto agli anni scorsi. Il motore di questa crescita saranno i consumi, e questo combinato con bassi tassi di interesse porterà a un miglioramento sul fronte dell'immobiliare, maggiori introiti fiscali che aiuteranno sul fronte del deficit. Ecco un po' quello che dicevo prima. Allen Sinai dunque va iscritto nella lista degli ottimisti, il mercato però non lo ha ascoltato. Non solo, il mercato non ha ascoltato neppure un paio di altre notizie piuttosto eclatanti che avrebbero dovuto dare un minimo di sicurezza. Sentiamo la prima. Facebook posted a $1 billion status update Monday. The social media king will pay $1 billion to buy Instagram. Facebook ha comprato Instagram per $1 miliardo, una notizia che per me è alquanto sbalorditiva. Intanto, che cos'è Instagram? Beh, è un'application, è un'applicazione che consente di distribuire in modo molto più creativo ed efficace delle fotografie che voi fate. Dunque una semplice applicazione. È stata sviluppata questa applicazione da due studenti di Stanford nel 2010, quindi neanche due anni fa, e il fatto che venga acquistata per $1 miliardo nel giro di un anno e mezzo, io lo trovo, continuo a trovarlo sbalorditivo. Pensate che la società ha appena 10 dipendenti, e con questi 10 dipendenti, inclusi due ragazzi che l'hanno fondata, ha già 27 milioni di utenti. Ecco, sono questi 27 milioni di utenti che ovviamente determinano il prezzo. Per Facebook era un'acquisizione importante, perché da una parte elimina potenziali concorrenti che avrebbero potuto prenderla, dice che potrà studiare le loro applicazioni e quindi quindi estenderle anche ad altre loro attività, però è chiaro che uno strumento, un'applicazione di questo genere per il social network è molto importante. Le foto sono un elemento chiave, lo saranno sempre di più, la flessibilità creativa con cui Instagram consente di fare la foto e metterla subito su internet è effettivamente meglio di altri concorrenti. Ecco, una notizia di questo genere avrebbe dovuto così contribuire a un miglioramento dell'umore di Wall Street, ma così non è stato, come non lo è stato per quest'altra notizia. AOL, the stock is up, I'm going to see the chart in a moment, but it's $1.1 billion of patents sold. Microsoft AOL è un affare, secondo me l'affare del secolo per AOL, perché ha venduto brevetti, pensate, a Microsoft per 1,1 miliardi di dollari, 800 brevetti nel settore della pubblicità, della ricerca, dei social network, quindi una serie di brevetti che l'AOL aveva di nuovo nel settore del social network. Il titolo AOL, in un momento in cui la borsa ha perso l'1%, ieri ha guadagnato il 45%. La domanda di fondo dunque che dobbiamo chiederci è che se con notizie tutto sommato positive alla fine prevalgono le notizie macroeconomiche negative e al tasso di disoccupazione non incoraggiante dobbiamo aggiungere la settimana scorsa notizie poco rassicuranti in arrivo dall'Europa, dunque c'è stata una combinazione certamente non positiva, c'è una combinazione non positiva. Allora molti analisti si domandano, ma siamo semplicemente davanti a un realizzo di profitti dopo una corsa forsennata o siamo invece davanti a una vera e propria correzione? Beh, una parte della risposta dipenderà naturalmente da quel che deciderà di fare Ben Bernanke alla Federal Reserve. They're not ready to QE3 now, but the point is that of course they're always keeping the door open for QE3. Ho parlato di questo con un altro economista americano, Carrie Leahy, il quale mi dice che Bernanke ha sempre lasciato una porta aperta per un QE3, dunque per un'altra manovra accomodante. Nelle sue ultime dichiarazioni è stato più cauto, dicendo che la questione chiave per la Fed deve essere la disoccupazione e dunque davanti a questo dato della disoccupazione si deve determinare se è davvero un dato preoccupante o meno. There still is a little bit of a contradiction between the improvement in the labor market and the speed of the overall. E dunque andiamo direttamente da Ben Bernanke, il quale ieri sera ha pronunciato un importante discorso ad Atlanta sulle regolamentazioni finanziarie, chiedendo numerosi interventi per cambiare le regole del gioco, per rendere tutto più trasparente, ma soprattutto ha detto che l'economia americana è ancora lontana da una ripresa solida dagli effetti della crisi finanziaria. Ecco, questo è il messaggio che forse i mercati avrebbero voluto ascoltare per capire se Bernanke potesse muoversi o meno nella direzione di una nuova politica accomodante. Secondo me Bernanke vorrebbe aspettare, non è detto che il dato sull'occupazione da solo sia sufficiente per smuoverlo, però è un segnale importante. Vediamo questa mattina l'apertura dei mercati come sarà ripresa la sua posizione. Una borsa che tra l'altro oggi comincerà a recepire i risultati trimestrali e che da un punto di vista generale deve prendere atto del fatto che il settore manifatturiero americano, le più importanti aziende americane oggi sono molto forti perché fanno buoni profitti, hanno un debito molto basso, hanno una posizione di cassa straordinariamente buona e sono riuscite, grazie alla ristrutturazione, ad aumentare di molto la loro produttività. Lo stesso vale per il settore bancario americano, le banche sono state ricapitalizzate, hanno fatto una cura dimagrante, stanno bene, ci sono degli elementi di solidità in questa economia americana. Il problema è che da un punto di vista macro le cose continuano a non rimettersi in moto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Si è aperta la Morrison Hotel Gallery a New York, una mostra fotografica dedicata al leader dei Nirvana, Kurt Cobain. Proprio in questi giorni ricorre il 18° anniversario della scomparsa avvenuta il 5 aprile del 94 e dunque a lui dedichiamo Something in the Way. New York